negra bella San Giustisa, tu sei regina di tutti i paesi, a tu mi passi porti allegria, poi vatti a negra di la vita mia, tu sei più peggio di li meglio iuri. Si peggio come bello prima muri, tu gira sempre non ti firma mai, perché con ti arruini scordami guai, a dove passi porti allegria, poi vacchianeggia di la vita mia, poi vacchianeggia bella San Giustisa.